Grazie. YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. E buonasera, bentornati a Radio Tube. Ciao Marta. Daniele Bellasio, benvenuto. Senti, questo Daniele, fatto che tu sei una donna di potere, per cui da no, quando? Sei una donna di... Tu hai già sentito le canzoni, sì, di Sanremo. Guarda, e io no. Sì. E Christian Goldoni, anche Christian Goldoni l'ha già sentito. Non l'ha ancora sentite? E questo è gravissimo. Allora, ti posso già dire che la tua canzone... Ecco, tutte le volte mi dici che ci hai preso, l'anno scorso mi avevi detto... Allora, l'anno scorso Masini, la tua canzone sarebbe stata quella di Masini, sì, per il testo. E anche un po' per la pettinatura. Vabbè, andiamo avanti, per povero Masini. Invece, quest'anno ti Enrico, dedico... Quest'anno, il fratello interista? Quella di Enrico sempre. Quella di Enrico però sempre, Però in particolare Ruggeri, ti dedico quella degli stadio, lo capirai... A me piacciono molto gli stadio, lo brava capirai. Lo capirò solo vivendo. Io le dedico quando lo sentite solo io. Sono un fan, capirai del, perché degli stadio, brava, brava. Gli stadio sono dei, come Enrico, dei bei leoni dai quali aspettiamo molto. Allora, voi potete scriverci @MartaCagnola, @DiBellasio, #CancellettoRadioTube, #ISDV. Questa è la settimana in cui è tornata lei, la regina lei, della televisione la italiana. Allora, la sera di Don e anche Matteo, di Facebook, Masterchef, c'era tutto. Lei ha fatto il 5,3%. Che è tantissimo. Ha fatto trending topic su Twitter. No, pure. Sì, io poi in questo periodo sto litigando con tutti su Twitter. Sai perché? Perché, allora, lo dice, gli ascoltatori se seguono i social network lo sanno. Esistono queste agenzie di pubbliche relazioni digitali che spesso prendono dei cosiddetti influencers. Sì. Cioè delle persone che hanno un grande... Sei affiliata, ti hanno affiliata. No, assolutamente indipendente e incorruttibile. Hai persino non voluto fare una pubblicità? Sì, quella volta... ve lo racconterò una volta perché... Fazio ha fatto la pubblicità, diciamo, Fazio c'è adesso è diventato di testimonial e una volta era stato offerto anche a me di fare testimonial, però ma io non mi dimetto da loro. Giornalista... Io per restare giornalista non l'ho fatta. Perché giornalisti si resta? Perché giornalisti proprio... Si nasce o si diventa? Sì, sì. Ma si diventa, non lo so, tu lo volevi fare da piccolo, ci ha detto la scorsa settimana. Torniamo a dirlo. È da grande che vacillo. Che vacilli. Allora, torniamo. Ci sono queste agenzie di PR che ti fanno arrabbiare, che chiamano spesso questi influencers, cioè personaggi che hanno tantissimo seguito in rete, e li convincono a twittare, ad esempio, su una trasmissione televisiva, li invitano a degli eventi, eccetera. In questo caso, invece, questa trasmissione non ha nulla di preparato, semplicemente i fan... Di Franca, Leosini. Franca, Leosini. Storie maledette. Hashtag Leosiners. Leosiners. E sono partite. Io sono una Leosiner. L'hai inventato tu come hashtag? No, gira. Ah. Però devo dire che lei ha fatto un grandissimo successo, un'intervista serissima, anche sì, ha scelto piuttosto un caso controversa. Marginale. Sì, perché è stata la prima intervista, a Rudy Gede, insomma, non ho ben capito ancora come si pronuncia. Dopo tanti anni dall'omicidio di Meredith Kercher, Amanda Knox e Raffaele Sollecito avevano parlato dappertutto, Rudy non ancora. E lei ha costruito un ritratto umano che ha veramente stupito e colpito tutti. Però la Franca, diciamolo, la Franca è una grande, perché lei in un caso così grave, così tremendo, lei è riuscita in punta di penna ogni minuto una chicca. A un certo punto voleva approfondire uno degli aspetti più controversi, più scabrosi, più gravi di quello che era successo quella notte di Halloween in cui venne uccisa Meredith Kercher. E cosa ha tirato fuori Franca Leosini? Vabbè. Non ne ho idea, mostramelo perché ho paura. Ma eccola qua, sentiamo Franca Leosini. Quel dito birichino sostanzialmente aveva così, insomma, ha avuto la sua così ragione di essere in un momento intimo, diciamo. Capisci che lei riesce a essere elegante, a parlare di un argomento delicatissimo senza essere volgare, senza essere morbosa. È l'unica Franca, l'unica che ci riesce. Sì, sicuramente, lei sicuramente. È riuscita. E tra l'altro fare... ci riesce di più quando parla a braccio. Rispetto sì, sì, sì. A quando a segue un, i dati un librone enorme con tutti i dati, perché lei è rigorosissima. Sì, sì, assolutamente. Le interviste sono Ed è incredibile perché è riuscita a parlare di un caso delicatissimo, creando ovviamente anche tutto uno scompiglio dal punto di vista giudiziario. Sì, assolutamente, si parla di revisione. Ricordiamo che Amanda Knox e Salvatore Sollecito invece sono stati assolti. E poi è tornato Magalli. No, ma non è Magalli che è tornato. Ragazzi, è successo... Ma una lite, ma dai. Beh, però io l'ho capito, perché la cosa è che io ogni volta ti parlo sopra e tu è 3 anni che mi perdoni, cioè non è che... No, però la protesti, cosa divertente è che tu non sai i rapporti umani che ci sono sì, sotto. Sì, no, ecco, è questo e che probabilmente... Magari ha ragione lui, c'era esatto. una rugginina questo della quale vero. Noi non sappiamo niente. Ma è convinto, passo dalla parte sua, perché potrebbe essere secondo che... Secondo me sotto c'è qualcosa. Gli hanno fatto qualunque cosa, dispetto. In famiglia? Non lo so, perché io Paolo la seguo Fox, poco la mattina. L'astrologo, sì, Giancarlo... che è molto seguito, sì, infatti sì, ci ha tenuto sì, a dire che è uno dei momenti più visti di quella trasmissione. Giancarlo Magalli. Sì. E una breve frizione. Già candidato, come vedremo dopo, alla presidenza della Repubblica. E una breve frizione tra i due. Una lieve frizione tra i due. Vai. Ecco qua. C'è la necessità di trovare un po' di tranquillità. Già c'ho 8 minuti, se voi vi mettete a parlare mentre io non ci capisco niente. Ha ragione. Perché voi vi espandete prima di questo spazio, che sarebbe di 18 minuti e diventa di 9. Però se parlate sotto io non ci capisco hai più ragione, niente. Scusate. Poi, magari lo dico stavolta, erano anni che volevo dirlo. Poi tanto tra 6 minuti me ne vado. Allora dicevo, anzi grazie per l'ascolto di ieri, perché questo è stato lo spazio più visto del programma. Qua grazie. Tanto tra 6 minuti me ne vado. Erano anni, tu sono 2 anni, tu ti espandi nelle prime 2 ore sì. del sabato del villaggio, poi e arrivi poi, e io ti parlo quella sopra. Quella volta che impazzisco te le dico esatto, tutte, e dici, erano anni che volevo erano dire. Anni. Perché secondo me qua, in questo brano si capisce che ci sono ruggini. Ci sono ruggini. Magalli infatti dice qualcosa, ma non si sente perché viene superato, non si sa, dall'applauso, dalle forze dell'ordine chiamata, vabbè. Sì, sì, si capisce che c'è qualcosa, però c'è della ruggine. Però questi sbotti in diretta. Sono divertenti, perché sì, poi alla fine sì, sì, danno sì. l'idea del fatto che poi c'è anche della verità in televisione. Che secondo me sotto c'è anche tanto... della verità dell'umanità, c'è cioè qualcosa sotto che non adesso funziona. Vuoi mandare in onda il tuo youtuber preferito di tutti i tempi? No, che allora fa adesso la parodia... mi devi spiegare perché tutte le settimane tu mi proponi perché questo è tenero, c'è è un vero. Youtuber che piace tantissimo mi... a Daniele Bellazzo. Zero come di si X chiama? Mi pare, Zero di X, giusto Christian? Sì, Zero di X. Lui ha un modo di non far ridere che a me fa ridere. Ah, cioè, okay. Lui è tecnicamente non fa molto ridere, sì. però umanamente fa molto ridere, nel senso che lo vedi che è sincero. E siccome noi Vuoi fare un'anticipazione sì. dell'ospite che avremo? Sì, e siccome gli ospiti che avremo sono grandissimi, accetteranno sì. sicuramente il fatto che un altro youtuber prenda in giro la parodia dei nostri super ospiti sì. che avremo tra poco. Che non diciamo, non so, fammi Vabbè, capire. Diciamoli. Noi avremo altrimenti... Avremo i The Pills, e quindi questa è una parodia dei The Pills. Sì, perché il film si intitola Sempre meglio che lavorare. Sì. E lui ha fatto Zero di X, ha fatto Sempre meglio che fare video. Una Vabbè, roba allora vediamolo un po' alla vediamolo. Radio, perché a Daniele Bellasio piace Zero tantissimo, scopriamo Vai. Perché. Ma che senso ha? Ma che senso? Una cosa basta che la fai, non importa che ci abbia un senso, chi se ne frega del senso. Tanto è tutto in bianco e nero, il senso c'è per forza. A me sembra solo roba a caso. Ed è roba a caso. Tutta roba a caso. Tutta roba a caso. Wow. Ma lo vogliamo far diventare un video politico? Non sarà partire con un video artistico in bianco e nero? Senti, ti devo fermare. Che è successo? Tu vuoi fare un video profondo, artistico, pensato, un video che faccia riflettere, no? Ma una cosa profonda, profonda bestia. La bestia? Ma c'è la barba. La barba, c'è la barba. Come la barba? E senza barba che vuoi fare? Un video artistico? Allora, Hai era sentito? Per la barba. Che recitazione. Adesso che devo verve. Dire... In regia ridevano come dei matti. Daniele Bellasio è fan, pazzo. Ma è per la è barba tenerissimo. Che sei fan. Per la barba. Avete cioè, tutti anche per i capelli la barba. Bianchi. Tu hai la barba, Gianmarco Gian, la barba. Detto Matteo. Cristiana la barba. Tutti non lo la so. Barba. Ah, Cristiana anche la barba. Io no. No, ma questa recita che bravi lì, poi bianco e nero, esatto, che satira proprio corrosiva dei The Pills. Non lo so se vai convinto. Vabbè, l'abbiamo mandato, dai, ce l'ho fatta. L'abbiamo mandato, sei contento. Adesso però abbiamo una breve pausa e poi sai di cosa parliamo? No, non lo dico ancora. C'è il traffico e poi dopo, non lo vuoi dire? Non lo so, vabbè, dai, diciamolo di cosa parliamo. Parliamo di parolacce che si possono o no dire a bordo campo. Secondo me nessuna, tra poco. Ciao. YouTube. E ci ritroviamo insieme per parlare di... Dopo il traffico ci ritroviamo, per parlare delle turbolenze sui mercati. No, per parlare di quello delle primarie di cui... milanesi. No, neanche quello. Di quello di cui hanno parlato tutti i social network questa settimana. Dai, diciamolo, dobbiamo parlare di calcio. Non è che stiamo parlando di calcio, stiamo parlando di educazione. Ecco, allora, mi fai una ricostruzione di quello che è successo. Intanto è una delle poche partite dell'Inter che non ho visto. Infatti l'Inter ha vinto 2-0, sa. Quest'anno, vabbè, ha vinto 2-0. Sul finire della partita di Coppa Italia, Napoli-Inter, vinta dell'Inter 2-0, Mancini ha un po' protestato perché secondo lui erano troppi minuti di recupero. Sai cosa sono i minuti di recupero? Supplementari. Quando i giocatori fanno finta di subire troppi falli per far perdere tanto tempo. Esatto. Allora poi danno... l'arbitro dice, ragazzi, non barate, lo so che avete fatto perdere un sacco di tempo. Allora Mancini si è arrabbiato perché avevano dato 5 minuti. Peraltro in quel recupero abbiamo fatto anche il secondo gol, ma insomma non proprio nel recupero. Vabbè. Mancini, allenatore dell'Inter, fino a qua ci sei con la sciarpa, molto elegante, bello, è sempre molto educato. Invece è arrivato Sarri, che è l'allenatore del Napoli, senza sciarpa, con la tuta, c'è tutta la retorica dell'allenatore con la tuta, il mister dei vecchi tempi. L'allenatore nel pallone, esatto. E pare che gli abbia detto Frocio Finocchio. L'ha detto Mancini. Lo sentiamo, ce l'abbiamo, lo mostriamo alla radio. Vai. Mancini ha detto così: che è un razzista. E gli uomini come lui non possono stare nel calcio. Io mi sono alzato solo per chiedere al quinto uomo, al quarto uomo, per come mai 5 minuti di recupero. E lui ha iniziato a inviare contro di me, poi a un certo punto urlando, dicendo Frocio Finocchio. Cioè, io sono orgoglioso di esserlo, se lui è un uomo. Ma le persone come lui non possono stare nel calcio, se no non migliorerà mai. Si deve vergognare, 60 anni. Il quarto uomo era lì, ha sentito, non ha detto niente. E si è difeso Sarri? Ha detto qualcosa Sarri? Sono cose da campo che dovrebbero finire in campo. A me i vecchi mi hanno sempre detto che quello che succede in campo finisce lì e ci si dà la mano e finisce tutto. Quindi cose normali da campo era meglio se non succedevano, però sono le classi litigate da campo. Sono così litigata da campo. Non lo so, è una cosa assurda. Peraltro ha preso soltanto 2 giornate di squalifico. Poi dopo vediamo, discutiamo con chi è più tecnico di me. Ma il punto fondamentale è che non gli hanno dato l'aggravante perché con la giustificazione che Mancini, essendo etero, quindi non era una discriminazione. Ma ti rendi conto della cosa assurda? Io non ci arrivo. Cioè, se tu usi una parola tipo frocio come offesa, ma l'altra persona non lo è, lo stai solo offendendo. Se invece lo è, c'è anche la discriminazione razziale, quindi l'aggravante. Non mi torna. Usando quella parola lì, tu non stai già indirettamente considerando che è una cosa molto negativa? Sì. Però è come calcio... se io ti dicessi biondo. Biondo, esatto. Io non lo so. Intanto già diresti con i capelli, che è un vantaggio rispetto. Vabbè, andiamo avanti. Comunque l'Inter ha accettato le scuse, Mancini pure, me l'ha segnalato Cristian Goldoni prima di entrare, quindi ieri hanno accettato le scuse. Che finisce bene, non lo so. Io vorrei un commento. Abbiamo in linea con noi un giornalista sportivo che io amo molto, giornalista, vice direttore Sky Sport, Federico Ferri. Buonasera Federico. Ciao. Buonasera Daniele, buonasera Marta. Io speravo che mi avessi chiamato per parlare di musica, ma mi accontento anche di No, ma se noi parliamo anche di musica, ma parliamo anche di calcio giocato dopo. Sono molto contento di stare con voi perché vi ascolto. Grazie. Federico, ma io sono un po' disorientata da tutta questa questione. Cioè, beh, non sei l'unica. Mi sembra così surreale. Guarda, tu cosa ne dici? Io ti posso dire, vado poco in onda ormai, ma mi sono trovato in onda esattamente mentre che stava fortunello. Accadendo questa cosa, ho avuto questa grande fortunello. Fortuna. Ero a speciale calciomercato, la trasmissione che c'è tutte le sere su Sky durante il periodo di mercato, ed è arrivata così piombata questa notizia, al punto che all'inizio ho pensato, ma non sarà stato proprio così, e quindi il nostro inviato ci ha riferito poi testualmente le dichiarazioni che poi ci avete fatto ascoltare poco fa, e devo dire che così poi in diretta non è stato facilissimo trovare le parole per commentare, perché è stato comunque spiazzante, no? perché la prima cosa che ti viene in mente è che, diciamo, non è che si vola proprio altissimo, ecco. Ecco, appunto, mi sembra una discussione veramente così a livello proprio erba, per restare in tema calcistico. Esatto, però al di là di quello che è successo, io non credo che ci sia neanche da aggiungere senza il rischio di passare per benisti, come usano fare quelli che oggi attaccano chiunque chieda soltanto un minimo di educazione. Però secondo me peggio poi quello che è accaduto dopo, sì. Perché visto che voi vi occupate di questo, sui social network, tutta ma anche sulla stampa, insomma, del giorno dopo, noi stessi, insomma, c'è stata un po' una caccia nel passato di Mancini per andare a trovare, ecco, degli elementi che giustificassero la tesi secondo la quale Mancini sostanzialmente fosse un ipocrita, perché ha detto questo ma poi in realtà ha fatto altro in passato. Non è che il punto è se Mancini è ipocrita o no, il punto è cosa ha fatto Sarri. Ah, certo. Poi sposti l'attenzione su qualcos'altro che eventualmente... Però... E mi dispiace che l'abbia fatto Sarri, proprio perché in realtà, avete parlato prima della retorica dell'allenatore in tuta, Sarri è esattamente l'opposto. Cioè, quello che ha dimostrato in questa stagione Sarri è stato quello di portare in realtà aria nuova nel calcio, concetti nuovi, un comportamento nuovo, e al di là di quello che è successo in campo, di cui io sono convintissimo che Sarri si è pentito un secondo dopo averlo detto, e che forse dimostra soltanto che c'è un piccolo lavoro, diciamo, da fare, perché se ti viene in mente quel termine come insulto, insomma, c'è qualche problema, sì. io credo, sì, in assoluto. No, anche però, perché lui dice cose da campo, però sì, no, certo, spero, certo, che davvero non si usi in campo. Sì, ma esattamente la esatto, questo è il punto. Secondo me, ecco, l'unica cosa che io ho compreso delle parole di Sarri e poi anche di chi si è schierato dalla sua parte nei giorni successivi, senza volerlo per questo far diventare un mostro, perché poi insomma anche no, questo, ma insomma, c'è. Ecco, è che se io litigo con un collega, no? E un collega mi dice una cosa molto grave e poi immediatamente dopo si ferma, ragiona, se ne pente, questo collega può anche sperare che io non renda pubblica questa lite. Insomma, capito? Sì, capito, sì, certo. Io credo che l'amarezza di Sarri fosse legata a questo. Cioè, ha fatto Mancini, potevi, al di là del... Non per il cose da campo, perché il cose da campo proprio non lo condivido. Non è quello il punto, non è che in campo si può fare tutto. Sarri l'ha messa su, siamo che... colleghi, ci capiamo, ci perdoniamo, esatto, a vicenda. Bravo. Io credo che quello fosse, sì, il punto. Cioè, Sarri può dire, io ti ho chiesto scusa subito, poteva finire qua. Ecco, potevi non rendere pubblica questa cosa. Però Federico, posso chiederti una cosa? Dentro la domanda farò un elogio a Sky, ma siccome lo penso lo faccio. Allora, una delle cose positive dell'arrivo del calcio raccontato su Sky è che si sta cercando di introdurre nello sport nazionale preferito dagli italiani un po' il concetto del fatto che deve essere uno sport, bisogna parlarne fino al dettaglio tecnico, bisogna raccontare tutte le storie possibili e immaginabili, però bisogna anche piantarla con tutto ciò che attorno al calcio sta e che non è bello, no, da noi. Cioè, in sostanza Sky sta cercando di raccontare il calcio come avviene in Inghilterra, no, come avviene in altri paesi in cui il calcio è uno sport dove si può litigare sul se sta facendo il 3-4-3 piuttosto che il 3-4-2, ma si parla di calcio, ci sono trasmissioni, quella con dove sono seduti attorno al tavolo, quella lì è proprio la classica trasmissione dove si arriva fino al cavillo della tecnica. Però in Italia non si riesce, ma perché? Sì, sì, di Sky Calcio Club, la trasmissione che ti riferisci, sì, quella della domenica sera. Sì, guarda, io penso una cosa, ed è il motivo per cui dispiace questa lite, per cui ti ho parlato prima di un dispiacere proprio per l'uomo Sarri, perché per quello che ha fatto fino a questo momento. Sì, sì, lui, ma infatti il problema non è lui. Infatti. Ha spinto cioè lui ci ha dato uno spunto per parlare di calcio quest'anno, un grande, sì, spunto con il suo Napoli, con quello che ha fatto con il suo Napoli, con la sua straordinaria storia, della sua straordinaria carriera. Però quello che, a cui tu ti riferisci è un problema, voglio dire, che secondo me un po' pertiene anche alla radicalizzazione del tifo. Sì. Mi spiego, se ogni cosa che viene, che ruota intorno al campo viene vista solo con l'occhio del tifo radicale, intendo bianco o nero, punto, non la Juventus, sì, bianco o nero, intendo o bianco o nero, poi è anche più difficile poter parlare di calcio come sport. Questo io non sto dicendo che essere tifosi è un male, anzi, ce ne fossero, i tifosi vanno benissimo, è del sale del calcio, è il bello del calcio. Dico soltanto che quando il tifo arriva ad accecare qualunque altra forma possibile di discussione legata al calcio e allo sport puro, cioè al gesto sportivo, a chi è più bravo e chi è meno bravo in campo, per dire, sì, per spingere, sì. Si arriva poi anche alla difficoltà di rimanere sulla partita. E si parla solo di quello che ha detto Sarri, e si parla solo di quello che ha detto Mancini. Quello è il punto, no? Giusto. Infatti io mi auguro poi alla fine che queste scuse accettate da Mancini in qualche modo chiudano il discorso, perché se vogliamo rimanere sul fatto culturale, allora possiamo parlarne ancora a lungo, ed è giusto parlarne a lungo, perché queste cose non devono accadere. Ma se vogliamo parlare del fatto specifico fra i due, diciamo che arrivati a sabato possiamo anche chiuderla qui. Ma secondo te Mancini vuole andare via? Secondo te Mancini vuole andare, no, come è stato detto? Preoccupato, Bellasio è preoccupato. No, dicono che voglia tornare in Inghilterra, non so. No. Allora questo posto di Lobba, secondo me, io non credo che per una vicenda come questa si voglia lasciare campionato italiano, se non ci sia già qualcosa che ti spinge ad andare altrove. No. Cioè, Mancini può voler andare via a fine stagione perché magari può avere altre offerte, la Premier è un campionato che l'ha sempre affascinato, ci è stato, potrebbe tornare ad avere offerte da lì. Io sono convinto che invece voglia vincere e lasciare da vincente con l'Inter. Però detto questo, non credo sinceramente che questo fatto possa spingere Mancini ad andarsene. Certamente, ecco, questo viaggio, questo andare a scavare nel passato di Mancini per trovare elementi che possano, diciamo, screditarlo in questa vicenda, credo che gli abbia fatto un po' male. Sì. Credo che non rispetti neanche una cosa, il fatto che le persone eventualmente, anche se in passato hanno fatto qualche cosa, possano anche cambiare. Certo. Ci sono delle esperienze che possono farle cambiare. Grazie Federico Ferri per essere stato con noi, sono molto contenta di averti avuto. Grazie, torna a trovarci. Grazie Federico. Ciao. Che bello, anche perché così ho capito un po' di più di questa storia che continua a lasciarmi abbastanza basita. Daniele, sei pronto? Tra poco abbiamo degli ospiti. Sì, abbiamo degli ospiti pazzeschi, restate con noi. Che bello, tra poco. Si ride. YouTube. Siamo pronti. Devo dirti che a quest'ora del sabato di solito mi viene un pochino di stanchezza. Come mai? Perché dopo tanto tempo, lavori tanto. Dopo tanta diretta. Intanto scriveteci, Marta Cagnola, et Bellasio. Et cosa? Di Bellasio, Non si capiva. Hashtag RadioTube. Sai che di solito a quest'ora sono un po' stanca, ma adesso invece sono tutta contenta. Tutta verba. Abbiamo visto anche il film. Sì, l'abbiamo visto, ti ho portato. Vabbè, allora, facciamo una cosa, non svegliamo. E mostriamo direttamente il trailer alla radio, perché loro sono già qui. Vi ricordate quando eravamo giovani e volevamo spaccare il mondo? Io ho la stessa identica voglia di spaccare il mondo di prima. Nessuno. Noi stiamo cercando una figura full time. Come full time? Ma vi ho detto che la mattina non posso. The Pills, sempre meglio che lavorare. Cominciate a lavorare, raga. Oddio Luca, ma che stai a dire? Dal 21 gennaio nei cinema. Dal 21 gennaio al cinema. Quante volte abbiamo parlato dei The Pills, dei questi loro... erano dei giornalisti ma no, ma a me piacciono tutti questi gruppi, non mi piacciono i milanesi che hanno scoperto ieri. Allora diciamo che mi hai portato finalmente alla prima cinematografica, perché ti ho fatto una testa tale al cinema. Finalmente non mi porti The mai Pills. La domenica mi lasci sempre solo e non mi porti alle anteprime cinematografiche. No, chiesto espressamente però The Pills. E tu hai talmente chiesto The Pills? Sì, ho talmente che i The rotto Pills le scatole. Sono qua, sono Matteo Corradini e Luigi Di Capua. Facciamo un saluto a Luca. Ciao Luca. Che abbiamo perso per strada. Ciao Luca. Abbiamo perso. Ci guardi dall'assù. Ma no, povero. No, ci guardi dall'assù, no, Luca. Perché Luca sta lavorando adesso, no? A differenza vostra, sì, lui. Sì. Luca si è seppellito sotto 40 kg di piumone con delle iniezioni di antibiotico, credo. Sta un po' male. Ha lavorato troppo. Sta un po' male. Ha fatto un mezzo part time una volta, un turno di part time, sta male, con la febbre, la polmonite. Ho detto che sempre meglio che lavorare. Allora, che è sempre meglio che lavorare, peraltro, si diceva dei giornalisti. Sì, quindi lo so. Luigi Barzini, sì. Junior, poi Montanè. Ci capiamo, parliamo tutti dello stesso argomento. È una cosa che, cioè, è molto più interessante, giusto, vederlo da questo punto di vista, nel senso anche riferimento al fatto che comunque, cioè, sono tutte quante delle mansioni inutili. Sì, beh, sì, effettivamente sono concretamente, formalmente inutili. Vai a caccia, procacci il cibo per la società. No, allora non portiamo avanti la società, spesso indietro. Molto indietro. Anzi, cioè, la distraiamo dalle cose importanti della vita, tipo andare su Marte, trovare un altro pianeta prima che questo qua verrà distrutto. Sempre meglio che lavorare. Posso leggere come inizia la trama del film? Mamma, come sei professionale, certo, oggi. I trentenni di oggi non trovano lavoro, non riescono a emanciparsi e di questo sono terribilmente affranti. I The Pills. No. E direi che da questo assunto muovevano intanto un sacco di vostri video su YouTube che hanno fatto veramente centinaia di milioni di visualizzazioni. Le cose con il loro nome. E poi vi è venuta questa idea folle, o a qualcuno è venuta questa idea folle di fare un film. Com'è nato? Non partiamo dai video di YouTube dei quali noi abbiamo parlato a Radio TV. Sì, sanno tutti i nostri ascoltatori. Ma l'idea poi di farli diventare un film? Ma l'idea di, diciamo che noi, a noi piacerebbe fare il cinema sotto tanti altri aspetti, magari nemmeno quello attoriale, girare, insomma, come regista, come sceneggiatore, come tante altre figure. Quindi quando ci è stato offerto l'idea di fare un film, c'era nell'aria che eventualmente si sarebbe potuto fare prima o poi, ma magari ce lo saremmo anche autoprodotto con i nostri mezzi in modo divertente. Con i nostri cellulari. Con i nostri cellulari, certo. Quindi nel momento in cui abbiamo deciso di, ci hanno proposto questa cosa, noi avevamo alcune idee in cantiere. E poi avete trovato un produttore, diciamo che in Italia in questo momento, in questo momento storico il pubblico italiano conosce solo il nome di un produttore, sì. L'unico lo di conosco, cui si... perfino io appunto, perché non seguo il cinema. Che è Pietro Valsecchi e... Pensa un po', dopo il film di Checco Zalone, che Pietro Valsecchi manda fuori nei cinema, sempre meglio che lavorare. Sì, diciamo che... Responsabilità, sentite. No, diciamo che lui è come... Lui fa con Checco Zalone un sacco di soldi e poi, capito... poi se diverte, tipo, quest'anno che facciamo? Facciamo il film di The Pills, divertente. Però si può permettere di buttare dei soldi. A parte che Matteo, non so se confermi, ha detto che tanto loro sarà molto più visto del film di Checco Zalone. Quel titolo del giornale è stato... Sai perché è stato fantastico? Perché io... L'ho detto in modo ironico, però mi piace che sia stato riportato in quel modo. Faremo più soldi di Zalone. Però posso dire che secondo me è giusta quella line, perché io dico che tutte le persone che hanno visto il film di Checco dovrebbero vedere il film di The Pills, anche perché comunque, insomma, di lavoro si tratta. Cioè, magari nella testa di Valsecchi c'era questa idea che... Questo fil rouge tra... Da che come conservare il posto fisso questi che lavorare. Diciamo che è stato poi un divertente caso il fatto che in un modo o nell'altro trattassero del tema del lavoro tutti e due. Poi in realtà diametralmente opposto. Esatto. Perché, in modo sì, totalmente diverso. Io ho visto il film di Checco Zalone... E, insomma, c'è questa metafora sul questa vecchia idea del posto fisso e tutto quanto, mentre invece noi portiamo avanti l'idea proprio del non posto fisso, del non lavorare. Addirittura, comunque, anche adesso nessuno di noi sogna o ambisce al posto fisso, anzi forse il posto fisso è anche tipo una noia totale. Probabilmente. Sì, io faccio sempre riferimento a quando a un certo punto mi hanno dovuto spiegare che cos'era il posto fisso, perché non lo sapevo, giovane. Cioè, no vabbè, ma il posto fisso, ma praticamente tu vieni assunto a un certo punto e ti fanno il contratto, poi quando finisce lavorare, cioè quando va in pensione, ma la cosa bella è che in quel momento apparve ai miei occhi come tipo la cosa più desiderata del momento in Italia, come quasi una mezza fregatura. Cioè, a me chi mo fa fate? Stai in ufficio per il resto della mia esistenza? Vabbè, tra l'altro, evidentemente noi siamo cresciuti con tipo gli input da 3000 di internet, per cui l'idea di fare tipo lo stesso lavoro per 40 anni è una cosa, oddio, agghiacciante, mi spaventerebbe. Nella clip del film, nel trailer, come si diceva un tempo, c'è una delle frasi che secondo me danno molto il senso del film. Ho la stessa identica voglia di spaccare il mondo di prima. Nessuna. Guardate, io me l'ero segnata sul pressbook, lo mostro alla radio come prima frase durante la proiezione. Sottolino pressbook. Sì, no, allora il pressbook. Gli appunti, gli appunti. È quel libretto di fotocopiato quello che danno là. Ai giornalisti. Poi siamo noi milanesi imbruttiti, no? Ma no. Lei il pressbook. Ma no, è un vabbè, strumento la stessa tecnico. Voglia di cambiare il mondo di prima, cioè nessuna. Ah, ragazzi, sì. Che sopportazione. Lo so. È molto Matteo, sì, porta avanti la tua filosofia. No, perché quella di Matteo. Ma guarda, io non credo sia personalissima, credo comunque sono insomma mi condividono abbastanza loro. Il fatto è il seguente: non è veramente il caso, cioè non è sicuramente il momento per fare dell'idealismo scusami, dell'ideologia, sì. Non è sicuramente quel momento lì. Abbiamo condotto tutto ciò che abbiamo fatto con una puntina di nichilismo, ma senza esagerare, e fondamentalmente ci siamo ritrovati con la possibilità di fare anche in maniera, spero abbastanza riuscito, a quello che ci piaceva. Quindi, cioè, perché prefiggersi, cioè, ad esempio, io non ho mai detto che nella vita volevo fare il cinema, perché una volta che tu dici voglio fare il cinema, poi ti devi anche accollare anche un po' il peso di dire una cosa del genere. Se tu invece parti comunque con l'intenzione di non fare niente, non dico non fare niente, però qualcosa, di non spaccare il mondo, no, però è stato effettivamente più conveniente per noi di aver scelto quella linea, perché altrimenti non avremmo fatto quello che abbiamo fatto. Esatto, proprio cioè, in maniera la crisi in quel momento e anche la situazione politica ed economica del paese sono stati comunque per noi, ma non soltanto per noi, anche per tanti che conosciamo, la spinta magari a cercare di tirare fuori qualcosa dal cilindro. Però la creatività che voi avete messo nei vostri video di YouTube non era detto che potesse essere riversata in un altro mezzo come il cinema. In tanti, passando dalla rete alla TV, ad esempio, si sono bruciati, hanno rovinato il loro patrimonio, sono scesi a compromessi che hanno rovinato la creatività iniziale. Evidentemente non c'era abbastanza creatività iniziale alla base. Ah, boom. Tu gliela stai tirando. Allora, no, come si suol dire, la tocca piano. È veramente molto bravo a farsi odiare. No. È molto sì, bravo. Perché adesso stiamo cercando di capire quali sono secondo lui quelli che non erano granché. Sì, no, sì, lo sappiamo tutti, non c'è bisogno senza di fare nomi. Comunque credo che sia molto legato al fatto che anche Sorrentino al passaggio dal web e cinema risentito. Ci ha perso tanto. Magari fa il passaggio inverso, da cinema a web. Con la web series. sì, la web series sulla grande bellezza. Sì, sì. Credo che è molto difficile, perché quando ti prendono da internet, sei un ragazzo, magari sei anche da solo, fai video dentro cameretta tua, e il momento in cui ti dicono vuoi fare un film, vuoi fare la televisione, magari non ci capisci niente e dici sì più o meno a tutto. E noi comunque, tra l'altro, non abbiamo nemmeno mai creduto che andare in televisione o andare al cinema fosse più dignitoso che fare, certo, le cose che facevamo. Assolutamente, cioè, per noi è salvezza. Esatto, per noi non è un'altra sfaccettatura di qualcosa. Ma un po' di paura del contagio è una mia vecchia tesi. Non avete di paura del contagio dei mezzi tradizionali, gli zombie mezzi tradizionali che il contagio c'è stato, e la gente ha anche spesso sul film lamenta il fatto che non c'è stato abbastanza, nel senso che per noi abbiamo creato senza essere Pippo Baudo, abbiamo semplicemente sentito e portato avanti quello che era un linguaggio il abbiamo vostro. Detto cerchiamo di fare una cosa che mantenga questo linguaggio. Un attimo di pazienza, perché adesso ci sono tutte le indicazioni per il traffico per chi sta viaggiando, ma poi saremo ancora insieme con RadioTube e con i The Pills. YouTube. E come passa veloce il tempo quando ci diverte. È già l'ultimo blocco siamo del qua nostro... con i The Pills. Vabbè, allora continuiamo con questi ultimi minuti di RadioTube con i The Pills. Ciao Siri, chiami Gianni. Chiamo Gianni. Rosetta, ciao bella. Gianni mio bello, senti, ho bisogno di un consiglio per come gestire i social e tu in questo sei un grande, un king. Qual è il segreto? Sono contento che tu mi abbia chiamato per risolvere questo problema, ma io non credo che esistano strategie particolari, almeno io non penso proprio. L'unica cosa che posso dirti è che la banalità batte sempre l'odio. Gianni, sei grande, ti amo. Tacci loro. Gaetano mi ha detto che viviamo nel ghetto, ma nel mentre penso che se io dormissi disteso sul tuo lato del letto, io forse sarei te. Volevo avere dei figli, né troppi né pochi, né tardi né domani. Con l'inverno che avanza, tu vuoi aprire un'azienda che fa tende con le mani. E ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare. Non volevo far festa e mi serviva un pretesto per lasciarti andare. E ci sono i The Pills intanto che cantano Calcutta, ci sono Luigi e Matteo con noi. Ragazzi, Gianni Morandi, l'avete preso per fare il teaser del film. Sì. E i giornalisti sì. erano convinti che poi sarebbe stato il protagonista del film e qualcuno l'ha anche scritto dopo il film con Gianni Morandi. Perché sì. il protagonista... Cioè l'avete fatto apposta per vedere chi... Non so se voi avete... Volevate il pubblico delle sessantenni, diciamo, sì, si può dire, no? Infatti questo video abbiamo fatto fighissimo. Fare la parte, gli abbiamo fatto fare... Ma anche lui era convinto di essere nel film, forse, no? Guarda, in realtà quella scena lì era nel film. Ah, ok. Però poi dopo l'abbiamo tagliata. Hanno tagliato Gianni Mora... Perché... Ma perché era un... Cioè era un cameo comunque sì, sì. No, cioè... diciamo che c'era tutta quanta la linea narrativa della nonna, che era molto simile a quella del padre. Cioè la nonna iniziava a fare sì. organizzatrice di eventi, social media strategist. E ci sembrava che fosse la cosa più figa del mondo che lei da social media strategist chiedesse comunque parere a quello che è a tutt'oggi il miglior social media manager che abbiamo in Italia, che è Gianni Morandi, che ha inventato una modalità di approccio all'odio e all'hating e agli haters di mm-hmm. internet completamente spiazzante, affogandoli per chiunque, d'amore esatto. E spiazza chiunque ti odia al punto che li ammortizzi completamente. Beh, voi avevate già scoperto tra virgolette Giancarlo Magalli tanto da farlo quasi candidare alla presidenza della Repubblica dopo il vostro... Da farlo eleggere. Sì, farlo eleggere pure. L'abbiamo fatto eleggere alla fine Giancarlo. Vi faccio questa domanda perché noi ci siamo chiesti, ma abbiamo effettivamente influito sul fatto che poi qualcuno aveva scritto Giancarlo Magalli? Beh, giusto. Certo che... Ok, allora no, perché non sono così pazzo o... Sì, sì, un mitomane da pensare. Però effettivamente abbiamo influito sul fatto certo. che una persona ha detto certo. che la Boldrini in camera ha detto tipo Magalli. C'è il video Boldrini dice per 10 minuti Magalli. Che dice per 10 minuti Magalli aveva detto Magalli. Spegnete Twitter quando dovete votare. Quindi io sono certo convinta che avete influito. Poi una chicca pazzesca nel film che voi avete preso. Pieno di citazioni peraltro. Fantastico. Molto alte, cinematografiche. Perché comunque film ne avete visti, no? Qualcuno. No, perché posso fare una domanda, poi ti lascio. No, scusa, lo so. Volevo fare una domanda sulle serie TV. Volevo fare una domanda sulle serie TV, visto che avete preso Giancarlo Esposito, che insomma è un filino importante per gli appassionati di TV. Purtroppo 2016. Serie TV non so, nessuno guarda più serie TV nel 2016. Ormai diciamo, è andata il nuovo trend è le serie TV sono 2013 sì, qual è il problema ti spiego è che finché cioè le serie TV hanno attecchito molto in un momento in cui nessuno aveva un cazzo da fare. È vero. Quindi ti puoi permettere di guardarti quattro sempre stagioni sempre meglio che lavorare esatto sì. Vanno fortissimo presso i giornalisti esatto. Continuano ad avere un cavolo da fare. Cioè comunque tre puntate di una serie come Breaking Bad, so, 3 per 50 minuti sono 102 ore e mezza, capisci? Cioè, tu devi avere 2 ore e mezza nella, in una giornata e vedete 3 puntate di Breaking Bad. Beh, hai molto tempo libero. Ma, quindi il fatto è che adesso che il paese riparte e non c'è più perché tempo... Perché stai ripartendo, sei renziano, quindi sei... Guarda, i The Prince hanno fatto un film, direi che cioè, il paese è già ripartito di brutto. Cioè, il paese sta andando veramente forte. È ripartito, è già quasi in declino. Esatto. Siamo già alla crisi dopo noi, siamo alla crisi dopo. Siamo alla crisi del 2030. Prima Lehman Brothers, adesso ci stanno i The Pills. A proposito di citazioni, io sono impazzita quando avete citato Un giorno in pretura. Cioè, noi siamo drogati. L'immaginario pop, più. Col carabiniere che sviene. Carabiniere che sviene. Io devo dire una cosa, abbiamo un amico in comune che è stato anche ospite la scorsa settimana. Che è Gabriele Niola, che è stato grande. E ormai non c'entra con io, Pietro Pacciani. No, ma chi lo sa? La scorsa settimana è stato ospite al Sabato del Villaggio. E ormai ci vengono i messaggi con scritto il carabiniere che sviene. Perché ormai perché il carabiniere tu che sviene? No, citavi lì mentre loro parlavano, tu citavi la prima. Sì. No, diciamo che anche la cosa, quella parte lì, no? Sembra un po' una rom-com, sembra un romantic comedy, certo, come è girata, tutta un po' pulita, no, un po' ruffianetta, un po' così. Quindi ci divertiva mettere in un discorso. Invece di citare Harry, ti presento Sally, capito? In atmosfera iperromantica, mettere che loro parlassero di una cosa così tipo greve e becera come il processo ai compagni di merenda. Non escono benissimo i genitori, cioè la generazione dei genitori, perché sono rimbambiti come i trentenni. Cioè, ma nel perché? Senso. Ma dai, il padre che appunto si rimbambisce di foto. Diciamo il problema che... è che perché considerarlo un rimbambimento? Esatto. Non ti viene da pensare che non si smette mai. Cioè, lui non ha smesso di evolversi ed è stato influenzato da un trend del suo tempo, e cioè le velleità. Cioè, ah, lui è stato influenzato. Lui a un certo punto ha detto: ma io lui proprio per in base al posto fisso. Mio padre non ha il posto fisso, ma è libero professionista. Fa l'idraulico. Lui ha 65 anni e fa l'idraulico da 60 anni. Come l'ispirazione degli idraulici nel film. Chi andrà a vedere The Pills? È suo padre, veramente? Lo lui sai? È mio padre, Beh, no, non lo sapevo. Giulio Corradini. Cioè, tu hai scoperto un attore così? Sì. Vabbè, lui ha scoperto un figlio così. È incredibile. No, però, cioè, comunque, per quale motivo è sbagliato? Cioè, nel senso, sulla carta, visto comunque come vanno le cose adesso, perché è sbagliato dopo 60 anni di muratura voler provare a fare il fotografo? C'è gente che non ha fatto, una triennale ad Amsterdam e fa il fotografo, lui ha fatto 60 anni di idraulico, non ci può provare una volta. Cioè, mozione approvata. Posso fare la domanda noiosa mia? Dai, vai. No, perché prima abbiamo fatto tutto l'elogio del nichilismo e della creatività, che è tutto giusto. Però poi dopo, voi quando fate i video sono fatti tecnicamente molto bene. Com'è che uno senza fare niente, col nichilismo, perché improvvisamente c'ha queste scene con il bianco e il nero, le riprese? Cioè, perché per non lavorare, vuol dire? Noi abbiamo lavorato 7 volte. Molto di più, tanto, esatto. Cioè, quindi avete studiato, letto dei libri, visto dei film. Sicuramente visto tipo? Dei film. Tipo, che ne so, tipo quello di Pio Medeo abbiamo visto. Era molto figo. No, nel senso che tipo noi ci siamo, io e Luca abbiamo maggiormente magari più là il pallino per il cinema, propriamente cinema, mentre Matteo anche più in generale sul... No, io voglio confessare, che poi non è una confessione, io non sono un enorme amante del cinema. Beh, cioè, questo è interessante perché io sono utente, crea un equilibrio, vedo film, però crea un equilibrio figo, per cui io e Luca spingiamo magari molto più sull'aspetto, sul tecnicismo, sia di scrittura, io da parte mia, che di regia da parte di Luca. Però la caratteristica di The Pills è che è molto bella, perché ogni tanto uno rischia di ingessarsi troppo si quando scarta, pensa... Nel momento in cui sta per diventare troppo film, scartate nel... Esatto, lui è in grado di avere quella lucidità di dire no, chi se ne frega se è sgrammaticato, chi se ne importa se... facciamolo così, è più figo. Mi vede che ride quando parlano del terzo atto, io mi faccio delle risate, cavolo. Li riporti. Cioè, nel senso, noi comunque, ma siete The Pills, state a parlare del terzo atto. Siamo molto amanti. Cioè, Luca ha girato l'altro progetto di Landog. Io ho scritto una cosa per teatro poco fa, ma sto scrivendo altri film. Cioè, siamo comunque super attenti. Io ho fatto Sorci Verdi, il programma con J-Ax. Hai visto la bomba. Quindi, però la cosa figa è che quando uno rischia di ingessarsi troppo, a quel punto arriva magari Matteo che dice No, dice tipo, ok, no, questa roba mandiamola così, torna deve essere realtà, così. Torna alla realtà e quindi la figaggine. Io vai, mi devo Marta. Riportare alla realtà alla perché realtà è finito il tempo a nostra sì, disposizione. Io non sapevo ci se, se salutarvi. Quarto film. Se salutarvi. C'ho lo scavallamento di campo, come dire, lo scavalcione. È perfetto per Marta. Allora. No, sì, sì. Vi trovate, fate lì le vostre cose, il campo lungo, no, il campo lecce. Non sapevo se salutarli con la cicorietta, con la turbofrenia. No, la filosofia di vita della cicorietta è una cosa che sta proprio fantastico. Altissima, sì, troppo alta. Andate a vederlo, è al cinema. È vero. The Pills, sempre meglio che lavorare, anche andare al cinema, sempre meglio che lavorare. Grazie Matteo, grazie a Luigi per essere stati grazie con noi. Salutiamo Luca che si cura a casa. Ciao Luca. Sì. Ciao Luca. Non lavorare troppo. Appuntamento al cinema, grazie ragazzi. Ciao. Daniele, sì, ci vediamo ci sabato prossimo. Ci vediamo sabato prossimo. Mi raccomando, alle 15 per il sabato del villaggio, alle 17 per RadioTube e sempre il podcast e su Twitter @MartaCagnola @Bellasi. Radio 24 punti per il podcast. Noi ci risentiamo sabato prossimo. Ciao.